Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, buonasera a tutti. Oggi è martedì 22 maggio del 2012. Questa è Blu Radio Veneto e siete all'interno della programmazione serale chiamata Blu Radio Sera. Una buonasera a tutti, vi arriva da Flavio Bilato e da chi insieme a me in questa serata, Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora Maurizio, anche questa sera tema rigorosamente live, completo di intervista per un artista che viene a trovarsi da Pordenone, ma è già conosciuta, diciamo, in tutta Italia, ma anche in alcune vesti anche all'estero. Quindi diamo il benvenuto a Eva. Buonasera Eva. Ciao, buonasera, grazie di avermi ospitato. Buonasera, sei sempre gradita ospite anche nel prossimissimo futuro. Comunque tu sei qua, sei venuta a trovarci perché hai un nuovo lavoro da proporci, Eva. Sì, sì, sono qui per presentarvi l'album nuovo, Dura Madre, e sono qui con Max Zanotti, che è il produttore del disco. Buonasera anche a Max, allora, benvenuto. Ciao, grazie. Allora, partiamo dal principio. Non tutti adesso di primo acchito riescono a comprendere chi è Eva, ma noi li aiutiamo perché andiamo un po' indietro nel tempo. E Eva cosa cantava? Questo dovresti dirlo tu. Ti pensavo iniziare direttamente con il pezzo, comunque lo ricordiamo ai nostri ascoltatori. C'era quella canzone che era diventato un tormentone, era il lontano 97-98, e c'era una canzone cantata da un gruppo, certi Prozac Plus, più, ecco qua. Prozac più con acido acida, quindi si cominciava col mi sento scossa agitata. Bravissimo. Ecco, adesso sono il meno indicato per cantare questa canzone. E allora era il 97-98, comunque la carriera di Eva come cantante non iniziava nel 97-98, perché andiamo ancora indietro nel tempo. Tu eri molto molto piccola, ma già molto decisa, molto precoce. Molto precoce. Pensa che ho sempre pensato di essere in ritardo sui tempi, in realtà poi guardandomi indietro ho detto, ma sì, perché cavolo avevo sta idea? Con la scusa che uno si sente in ritardo, poi alla fine arriva in anticipo. Sì. E quindi abbiamo già dato quella che è l'impronta della musica di Eva con i Prozac più, e perché c'era in quel periodo il punk che andava molto. Come ti identificavi all'interno della gestione punk, del tuo stato di essere cantante? Ma ad essere onesta, io non ho mai fatto grandi distinzioni di musica. Le uniche distinzioni che facevano erano quelle, cioè mi piace, non mi piace. Fortunatamente quello che facevamo mi piaceva e quindi rientrava in quelli che erano i miei gusti. Poi devo dire che il lavoro che abbiamo fatto con Gianmaria è sempre stato un lavoro di qualità, e quindi insomma sono sempre stata molto felice, insomma, del lavoro che siamo riusciti e del livello che siamo riusciti ad ottenere. Perché era un terreno fertile. Il grande complotto friulano, si parte tutto dal grande complotto, il punk friulano. Sì, Gianmaria era riuscito a prendere le ultime code, del grande complotto. Esatto, di quel periodo lì, in qualche modo l'ha convogliato anche a noi, insomma. Stiamo parlando di Gianmaria Accusani, in questo caso, che è stato con te uno degli artefici del gruppo, sì, Prozac più, il fondatore. Sì, naturalmente sì, ti ha portato, ti ha accompagnato al successo, al primo vero Siamo successo. Siamo arrivati assieme, insomma, sì. Tutti e tre, io, Gianmaria Cosani e Elisabetta Emelio. Avete spaccato, veramente. Avete spaccato nel senso positivo del termine. Sì, sì, avete rotto, cioè, dire che c'è stato uno schema di provincia per arrivare alla nazione. Sì, sì, erano anni anche fortunati in cui comunque c'era l'opportunità per un certo, c'è stata l'opportunità per un certo genere musicale, non solo per noi come gruppo, ma anche per altri gruppi, insomma, di riuscire ad arrivare nei primi posti, diciamo, della top 10 italiana, quando appunto noi eravamo al secondo posto della classifica, c'erano i CSI al primo posto. Credo che sia caso unico, sì, più sì, unico che raro, insomma, nella storia della musica italiana, che gruppi che arrivano dal rock o comunque da una base alternativa indie siano riusciti a ottenere quella posizione. Ed erano anni molto molto molto ricchi di fermento, c'era veramente bella musica in giro in quel periodo. Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che in questa serata abbiamo come ospite in studio Eva per la presentazione del suo nuovo CD, si intitola Dura Madre. Allora, per capire la musica di cosa stiamo parlando, direi di far ascoltare subito un primo pezzo per poi tornare e commentare insieme questo bel CD. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato il primo pezzo tratto da Dura Madre, l'ultimo lavoro di Eva, e ci siamo ascoltati il pezzo da disco, proprio l'introduzione a questo lavoro formato da 10 tracce, si intitola Male Nero. E allora abbiamo con noi in studio Eva, poi la sentiremo anche con le sue canzoni in versione live. Allora, Male Nero, guarda caso si inizia con Mi Sento, un qualcosa che riguardava il passato, dove tu dicevi, l'abbiamo ripetuto prima, mi sento scossa, adesso dici mi sento come un temporale. Cosa è cambiato? Devo dire che è stata una, come si dice, una casualità, me ne sono resa conto poi di questa cosa, sì. Però è allucinante perché effettivamente alcune delle nostre canzoni, proprio quella appunto, ha avuto un tale successo che io non, mi pare che sia vietato per me esprimermi utilizzando parole tipo frasi come mi sento, oppure utilizzare la parola acida, oppure scossa, non posso più usare certe parole perché tutti ting, mi sono le campanelle, e che cavolo, cioè... sono parole che comunque fanno, sono parte, che fanno parte della, del dizionario. Esatto, del dizionario sì, italiano, certo. Cioè scusatemi, dovrei poterle usare. Anche perché il mi sento fa sempre, è sempre relativo a un sentimento, esatto, a un qualcosa che sia dentro. Non posso pensare di cancellarlo, insomma, dal mio vocabolario. Quindi un rock fermo, deciso, alternato anche da melodie, oserei dire, quasi etniche. Come è nato questo lavoro? Ma ecco, adesso vedi, io ascolto sempre quello che mi dicono le persone che parlano del mio lavoro con molta attenzione, perché così riesco a capire cosa c'è dentro tante volte, perché è particolare. È sempre difficile dare poi un'opinione sul proprio lavoro, no? E, cosa c'è? Questo album credo che sia un album abbastanza vario sotto certi profili, nel senso che credo che sia, che pur muovendosi su un'idea fondamentalmente molto chiara, compatta, riesca comunque ad avere una varietà di emozioni, di stati d'animo, di BPM, quindi a portare veramente una sorta di, insomma, di mood, compatto ma allo stesso tempo vario, variegato, non so se mi spiego. E a proposito di mood, adesso parliamo con Max, a me interessa sapere come hai deciso di arrangiare questo pezzo, che racconta di un incubo, l'acqua è un incubo che ricorrente per Eva. Sicuramente c'era una parte scura che era il sogno, e quindi il dark, e quindi l'inizio mi piaceva proprio una cosa molto profonda che fosse come un'onda. Ecco la mucca che è arrivata all'inizio con questa chitarra, mentre il ritornello la immaginavo proprio sulle onde, e quindi molto acquatico è come ritornello, quindi comunque Eva ha dato la direzione del mood dell'arrangiamento, perché i testi erano molto indicativi su poi quello che doveva essere il sottofondo musicale, e quindi è stato semplice ma articolato, semplice perché la direzione era ben chiara, articolato perché non dovevamo fare cose scontate, né giusto per mettere qualcosa che supportasse, certo, la melodia della voce. Certo. Max, prima, mentre stava andando la canzone, sì, pur rispettando la privacy, ti abbiamo visto proprio con gli occhi chiusi e assolutamente concentrato su questo. Sto ripassando i pezzi. Per quello. Tu non sai, ma abbiamo approfittato di te, abbiamo fatto una foto. Ti abbiamo fotografato, ecco. Sì. Stavo ripassando perché abbiamo la prima data, ma qua tra promozioni e non abbiamo tempo di allora ripasso. Allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo con Eva e assieme a Max Zanotti, suo produttore, e durante la trasmissione scatteremo delle foto, già stiamo registrando anche questa diretta che poi potrete riascoltare all'interno dei nostri archivi sonori, e quindi all'interno della notizia riservata a Eva all'interno del sito bluradioveneto.it ci sarà anche la possibilità di cliccare per entrare nel nostro mondo fotografico con un fotografo di alto livello qual è Maurizio. Hai trovato proprio l'alto livello e con il suo zoom manuale di avanguardia. Prima un quarto d'ora per fare la foto divertite con Max, sì, noi sì, sempre. Assolutamente, in un quarto d'ora il fotografo professionista fa circa 150 scatti. Maurizio ne fa uno. Cos'è, mica sono un colibrì? In effetti sono rimasta disarticolata per stare con la mano aperta. Vabbè. Allora torniamo a parlare di Dura Madre. Abbiamo detto prima che Eva ci canterà anche qualcosa dal vivo, per l'occasione accompagnata da Max Zanotti alla chitarra, e quindi diamo spazio subito al primo pezzo, un primo pezzo che più che un nome ha un numero 6. Quindi più numero o più verbo in questo caso? Come nella buona tradizione da cui arrivo, non si sa. Benissimo. E allora ce l'ascoltiamo. Questo dovrei ricordarmelo, vediamo. Mi sento tanto apicella. Ok. Sei come io non sarò mai. Proprio come mi vorrei, tu sei. Hai occhi più belli dei miei, labbra come le vorrei, tu sei, tu sei, tu sei, come mi vorrei, tu sei, dentro gli occhi miei, tu sei, come mi vorrei, tu sei, sei, nascosta dentro di me, te invisibile con Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. La canzone si intitola Sei, è scritta nella copertina del disco proprio come il numero, l'abbiamo sentita nella versione live, dove invece abbiamo scoperto che è più un verbo, quindi sei, sei, sei, è una canzone d'amore, è una ballata elettro rock. No, ma 666 però se la metti così. No, se la metti così è un numero. È un numero un po'. Che va verso l'inferno, vorrei dire in questo caso. Sì, citiamo gli Aphrodite Child e lasciamoli là in fondo. Ecco. Diciamo che non ci sono riferimenti. No, assolutamente no. Musicalmente è un pezzo molto bello, con acusticità, in discorso anche della voce, l'uso della voce. Tu hai studiato e continui a studiare canto jazz, quindi l'uso della voce dà una colorazione un po' particolare al pezzo. Io ho iniziato a studiare jazz 2 anni fa, quindi in realtà sono veramente una principiante, però sicuramente rispetto a quello, a come era utilizzata la voce nelle mie precedenti esperienze, sicuramente in questo disco la voce ha uno spazio molto più ampio, un'opportunità insomma di muoversi più liberamente, di essere più protagonista, giustamente al mio disco solista, scusatemi, mi sono permessa di godermela un attimo. Poi tra l'altro con la produzione di Max, che è comunque un cantante anche lui, insomma ci siamo veramente divertiti a utilizzare tutti i colori possibili del canto, insomma, e della melodia in genere. Benissimo, e poi la versione acustica che ha fatto Max stasera, sì, poi si presta notevolmente, questa nota ripetuta, quasi sì, ipnotica, continua, da un certo sì, giusto. Nella mia scrittura, sia a livello melodico delle parti vocali che delle parti, insomma, che è la scrittura proprio del brano, la parte musicale, diciamo, del brano, devo dire che ritorna molto questo modo di scrivere. A me piace molto mi piacciono molto le melodie che si rincorrono, sì, circolari praticamente, circolari, esattamente, quindi qualcosa di ipnotico che per qualcuno può essere magari anche noioso, ripetitivo, però per me è molto bello, mi piace questa funzione anche quasi di come dire, di appunto ipnotizzante in qualche modo della musica, che coinvolgimento, coinvolgimento, sì, possiamo dire questo, ipnotico, ipnotico, sì, sì, sì, direi di sì, sì. Okay. Allora un ascoltatore si aspetta una dimensione un po' rock punk e non viene assolutamente deluso all'interno di questo disco, anche se ci sono delle chicche che portano invece appunto a queste ballate elettroacustiche di un certo impatto. Io guarda, direi un po', direi che c'è, piuttosto direi che c'è qualche elemento semmai che porta verso l'hardcore, verso il punk melodico, però il resto del disco onestamente si discosta abbastanza, ci sono situazioni, forse io definisco questa musica, quello che è bene o male che esce da questo disco, come, come un genere elettro electro rock dark wave in qualche modo, perché secondo me ci sono in mezzo tutte queste sonorità che sono forse quelle più presenti, poi ci sono in effetti due episodi che nel giocatore e temporale che strizzano l'occhio a quello che è il mondo hardcore melodico, però insomma relativamente da vicino, ecco, non è che possiamo definirle proprio due pezzi ad hoc su quel mondo lì. Bene, ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando con Eva per la presentazione del suo ultimo CD, si intitola Dura Madre, e non abbiamo ancora chiesto una cosa a Eva, come mai un titolo così, così forte? Volete la versione lunga o la versione breve? È quello che chiedo sempre. La versione media. Ancora non ce l'ho, devo fare ancora un po' di interviste. Vabbè. No, dai. No, però è vera questa cosa che dico, nel senso che è un po' lunghetta. Posso dirvi che il titolo è una cosa che è stata ricercata a lungo, e con il terrore da parte di Max e degli altri che collaboravano insomma alla realizzazione del disco, perché a un certo punto eravamo ai tempi stretti, si dovevano chiudere un po' tutte le cose, io ancora non avevo questo cavolo di titolo, perché in realtà ci tenevo molto, volevo che fosse che avesse insomma un tenore, un livello parimenti insomma a quello che aveva eravamo riusciti a ottenere con il disco. L'hai trovato su Wikipedia praticamente? No, in realtà no, adesso ti spiego quella cosa lì di Wikipedia. L'ho trovato in realtà nel dormiveglia. Ah, nel dormiveglia? Sì, sì, mi sono svegliata una mattina. È uguale. No, io ho il cervello un po' strano che prima mi dice le cose e poi mi dice mi dà delle buttate, mi dice ok, questa è la tua soluzione, non chiederti troppo perché, fallo, seguimi e poi fidati, vedrai, capirai, e così mi succede. Quindi al dormiveglio mi è venuta in mente questa parola, che sapevo che cosa significava, però non ero sicura, quindi mi sono voltata verso il mio computer che dorme a fianco a me come il mio moroso, ho aperto, acceso, e sono andata a Wikipedia, quella che ormai è diventata l'enciclopedia per tutti, e sono andata a cercare Dura Madre, ed effettivamente il termine faceva proprio riferimento al termine medico della pachimeninge, che è questa membrana che riveste il cervello e il midollo spinale ed ha una funzione protettiva, quindi di rivestimento protettivo nei confronti di queste strutture, mettiamole così. E mi è piaciuto molto intanto il suono delle due parole, dura madre, che comunque sono in contrasto, perché insomma dura come aggettivo insomma, non è sicuramente non ti fa suonare un normale accostamento a madre, che invece tutti quanti associamo a qualcosa di dolce, gentile, di insomma accogliente, protettivo, e però allo stesso tempo il fatto che comunque si riferisse ad una struttura protettiva che protegge comunque una parte del nostro corpo, e oltretutto una parte così importante che è sede del nostro ragionamento, della nostra evoluzione, della nostra crescita, mi sembrava tornasse molto col senso del disco. Mi piaceva anche molto perché appunto anche le parole letteralmente prese come dura madre, quindi una madre severa, e quindi tornavano sempre ancora con quello di cui per me parlava il disco, cioè comunque secondo me all'interno dell'album bene o male è incentrato su racconti di esperienze comunque piuttosto magari dure, comunque prove difficili da superare in qualche modo, di fronte ai quali tutti un po' ci troviamo, e quindi sono le prove della vita fondamentalmente, prove a cui la vita spesso ci mette di fronte, e nel superamento di queste avviene la nostra evoluzione, di conseguenza in qualche modo io vedo la vita come un po' una madre matrigna che come una madre appunto un po' dura, ci propone queste prove, ma se le propone perché ci vuole proteggere, perché al superamento di queste noi abbiamo una crescita, un'evoluzione, impariamo, acquisiamo delle nuove conoscenze e riusciamo a crescere fondamentalmente, evolverci. Così torniamo al discorso della protezione della Pachyuhyun Ninja, di questa struttura, e se di questo parla il mio disco, quale titolo migliore che Non dura madre? Questa era la versione breve, immagino. No, questa è la versione lunga. Semilunga, questa era la versione media solo per voi. Questa è la versione Wikipedia. Tra un po' si troverà Dura madre con la spiegazione mia. Oltre a essere l'isu di Eva, è anche la Pachyuhyun Ninja. E anche la Pachyuhyun Ninja, esatto. Bene, allora adesso prendiamo un po' di fiato. Sì, vediamo di assimilare. È una roba lunga sta domanda. Vediamo di assimilare questi dati. Assimiliamo i dati, ci ascoltiamo un altro pezzo tratto dal CD di Eva, che si intitola Dura madre. Blu Radio Sera. I'll be roaming like a hitcher, and you will frame every single picture of the new world I see along the way. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Si siamo sempre noi di Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale chiamata Blu Radio Sera. Una buona serata ancora vi arriva da Flavio Bilato, ancora da Maurizio Calzavara. Siamo assieme a Eva per la presentazione di questo suo nuovo disco, si intitola Dura Madre. Prima abbiamo ascoltato delle canzoni cantate in italiano, adesso era di turno Childless, una canzone cantata in inglese e scritta da Max Zanotti. Bravissimo. Assieme a Marta Innocenti. Marta Innocenti, esatto. Ok, allora come mai questo inserimento della musica inglese? Già avevate fatto dei dischi prima come Prozac più anche in versione inglese. Max, cosa dici in proposito? Di questo pezzo o dei pezzi di Prozac? No, di questo pezzo. Sì. Ma era un pezzo che avevo scritto per un altro artista e aveva una sonorità un po' diversa, più vicina a quell'artista. E ho chiesto a Eva di ascoltarla, vedere che cosa ne pensava, se le piaceva così. E appena gliel'ho fatto sentire, mi ha detto: ma glielo devi dare per forza. Tutto vero. Mi piacerebbe farlo nel mio disco, eh. Abbiamo logicamente trovato una chiave di lettura, un colore più vicino a sì. quello che era la sua vocalità e anche la sua, anche se vuoi, la sua esperienza jazz. Sì. Jazz. Ok. Sì, soprattutto la parte finale, sì. Beh, sì. E quindi abbiamo detto: facciamo questo esperimento, se piace, ma non ci siamo chiesti troppo se poteva centrare nel disco col colore del disco, perché non ce ne fregava proprio niente, certo. Nel senso, è venuto bene. Poi ci sono degli elementi che accomunano tutti i pezzi, come ha detto prima Eva, è un disco compatto, ma rappresentano Eva del 2012, quindi certo. anche i suoi ascolti, e possono essere anche vari generi, no? Il jazz, il crossover, il punk, certo. Qua il prezzo iniziale c'è molto crossover, secondo me, in questo pezzo. Sì. Dopo al fine c'è un po' di jazz. A me personalmente piace molto mischiare i generi, certo. e cercare di trovare un denominatore comune. La stessa cosa pensava Eva, e quindi e poi ci siamo avvalsi appunto del testo riadattato in maniera corretta da parte di Marta Innocenti, che è stata bravissima, perché ha mantenuto proprio il colore delle parole che avevamo inserito, e quindi siamo contenti. Molto, molto. Bene. Salutiamo anche chi ci sta ascoltando via streaming audio attraverso il nostro sito bluradioveneto.it e anche a chi ci vorrà scrivere i commenti all'interno della nostra pagina Facebook, che risponde al nome di Blu Radio Veneto Rock Wave. Allora, si parlava di questa canzone in inglese, ma ti trovi meglio a cantare in italiano o in inglese? Ti piacciono tutte e due? Si canta diversamente, sicuramente. L'inglese è più facile. Dio, la pronuncio, poi per carità, probabilmente non è perfetta. Io ho cercato di lavorarci un po', in questo senso devo ringraziare Alina Cartier che mi ha dato una mano, insomma, sulla pronuncia, e che poi ha fatto anche i cori in questo brano, è stata bravissima, e insomma, quindi sono riuscita a cantarlo anche con una pronuncia valida, e grazie anche a lei. Però devo dire che appunto l'inglese è molto più facile, più melodico, più intuitivo, e distrae anche di meno nella memorizzazione del testo, perché almeno per quanto mi riguarda si va proprio a livello sonoro. E l'italiano è molto più difficile. Trovare un testo e scrivere un testo in italiano in modo che non sia banale, non risulti banale, ma lavori sulla ritmica e sulla melodia, avendo le vocali che chiudono ogni parola, è molto più complicato. Ve lo potrà dire anche Max, ve lo potrà dire chiunque scriva testi in italiano. È più facile essere banali e riuscire ad uscire, insomma, un pochino da una scrittura, diciamo, da una tradizione tipica italiana, non è così facile, è veramente molto più difficile. Certamente, quindi l'inglese è più musicale, possiamo concludere così? Sicuramente più musicale, perché comunque non ha la chiusura di tutte le parole e con una vocale, e le parole rimangono tronche, sono più facili, e poi noi non siamo legati al significato perché esatto. comunque lo capiamo, ma non, sì. non è quello che ci importa certo. per quanto riguarda noi italiani. Poi gli inglesi, non lo so, insomma, bisognerebbe chiedere a un inglese cosa percepisce, però per noi italiani è rimane come un suono indistinto. Poi dopo andiamo magari a capirne il senso, però in realtà a livello proprio così interpretativo c'è più facile cantare, perché ci concentriamo più sulla sonorità piuttosto che sul senso. Invece è difficile distaccarsi dal senso quando si canta in italiano, e quindi tante volte ci si confonde. Anche io personalmente, per esempio, alle volte mi invento un po' dei testi alternativi, però perché purtroppo alle volte ti confondi anche con il significato in qualche modo. E comunque dare appunto priorità a una sorta di ritmica e melodicità del testo, pur non risultando banali nelle parole che si scrive, e diventa molto più difficile in italiano, appunto proprio perché c'è anche questa, le parole sono comunque tutte chiuse da vocali alla fine. Certo, certo. Bene, chiaro. Allora stiamo parlando con Eva, per saperne di più comunque esiste anche un sito internet a disposizione degli ascoltatori, si chiama www.evamusic.it. All'interno di questo sito, oltre a poter scaricare tramite i siti iTunes o altri il Dura Madre, c'è anche la possibilità di vedere notizie riguardanti sì. Eva prima, dopo e durante. Bravissimo. Quindi anche per quelli che sono i concerti prossimi, e se non altro quella che sarà la presentazione ufficiale, anche se in questo caso okay, noi possiamo dire di essere tra i primissimi a proporre Eva per radio. Eh beh sì, in effetti siamo ancora in piena promozione, e comunque è vero, voi siete tra i primi ad avermi in radio in una versione live, e appunto anche a me fa piacere che tu abbia ricordato la data del 29, che per l'appunto sarà lo showcase ufficiale, insomma la presentazione del disco che avverrà a Milano al Rock and Roll. E quindi vi aspettiamo numerosi. Ecco, per chi non sa dov'è Rock and Roll, all'interno del sito di Eva, ricordiamo ancora evamusic.it, c'è anche proprio l'indirizzo con precisione. Ci sono tutte le informazioni di dove si farà la serata. Benissimo, visto che Max ha portato la chitarra, l'abbiamo già avuto modo di sentire, c'è un brano che ci piace tra tutti, che è anche quel singolo che si sta spingendo in questo periodo. Sì, Cadono Nuvole. Eccolo qua. Allora ce l'ascoltiamo in versione live, che deve essere altrettanto stupenda come quella aspetta, che dai disco. Max mette le mani avanti. Sta preparando. Tre, cinque, sei, sette volte che hai messo le mani su di me. 6, 7, 8, 9 le cose che non si dimenticano, perché tre, cinque, sei, sette volte che ho chiuso gli occhi davanti a te. 6, 7, 8, 9 le ferite aperte su di me. Ci sono troppe storie che non voglio più riascoltare, perché non fanno parte di me, non sono niente per me. Sette volte che ho aperto gli occhi davanti a te. 6, 7, 8, 9 le mani che ho visto e non vedrò mai più, perché ci sono solo 10 cose che sono importanti per me e fanno parte di me, e sono parte di me, e fanno parte di me, e sono parte di me. Cadono nuvole, lontano da me, 5, 6, 7 volte che 6, 7, 8 e 9, 9, 9, 9. Cadono nuvole lontano da me, cadono nuvole lontano da me, cadono nuvole lontano da me, cadono nuvole lontano da Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora Blu Radio Sera, siete sempre con Flavio Bilato e Maurizio Calzavara in questa serata di martedì 22 maggio del 2012. Sono le 21:43 e noi stiamo piacevolmente ascoltando il disco di Eva, si intitola Dura Madre, al quale abbiniamo anche alcuni pezzi live. Grazie ad Eva di essere venuta qui a presenziare in carne ed ossa nei nostri studi, assieme a Max Zanotti, chitarrista e produttore, per l'occasione, per questo Dura Madre. Allora, ci siamo ascoltati in versione live il pezzo, che è andato molto bene in questa versione, però è altrettanto affascinante all'interno del disco, ed è uno dei pezzi che avete scelto anche per fare da traino al CD, proprio Cadono Nuvole. Questo Cadono Nuvole che inizia con una filastrocca, ma poi la storia parla di una relazione finita, di qualcosa di molto più duro. In realtà quando racconto quello che significa questo brano, cerco di non essere troppo specifica, perché mi fa piacere che comunque ognuno possa trovare una propria interpretazione, per quanto possibile comunque leggerci la propria storia. Bene o male, in questo brano si racconta quella che è, diciamo, una relazione sbagliata tra due persone, che possono essere anche genitori e figli, fratelli e sorelle, piuttosto che appunto un compagno con una compagna o viceversa. Comunque racconta appunto quella che è una relazione sicuramente sbagliata, in cui uno dei due ovviamente è, diciamo che in qualche modo è violento psicologicamente o fisicamente nei confronti dell'altra persona, e l'altra persona a un certo punto si rende conto dell'errore, di quanto sia sbagliata questa relazione, e in qualche modo riesce a superare, proprio grazie alla comprensione di questa situazione, riesce ad imparare, insomma, a capire che questa è una situazione sbagliata dalla quale deve uscire, e ne esce appunto emancipandosi da questa situazione. Credo che sia un tema, almeno è un tema che a me interessa molto, colpisce molto, e che è molto attuale in un suo aspetto in questo momento, anche in Italia e in varie parti del mondo. Purtroppo spesso le persone che ci sono più vicine sono le persone che ci possono causare o fare più facilmente del male, proprio perché noi siamo molto più aperti e senza alcuna barriera, senza alcuna difesa nei loro confronti, perché da loro ci aspetteremo protezione e conforto, invece tante volte appunto, scusate la ripetizione, abbiamo diciamo che ci arriva invece del ripetizione certo. Arrivano del male, insomma, delle mazzate, diciamo, e ne vediamo di situazioni, sì. Purtroppo anche in Italia, quante situazioni anche ultimamente, negli ultimi giorni, che ne so, di genitori che buttano i figli dalla finestra, mamma mia, e poi si suicidano, piuttosto che di ex compagni che uccidono le mogli o le fidanzate perché non accettano che loro li lascino, situazioni di questo genere, insomma. A me è un È un tema che mi tocca moltissimo e che credo avrebbe bisogno di essere analizzato più profondamente. Credo che in Italia si parli, e non solo in Italia, moltissimo, che ne so, parlando che semplicemente del rapporto tra uomo e donna, si faccia molto caso alla sessualità, ma si faccia molto, e si fa anche educazione sessuale, però non si fa educazione sentimentale. Credo che sia un aspetto molto importante che dovrebbe ogni società dovrebbe evitare di sottovalutare. C'è poca, diciamo, poca istruzione su quello che è il contenuto della dura madre in questo caso, no? Quindi, purtroppo sì, visto che ci rifacciamo al titolo del tuo disco, abbiamo già spiegato prima di cosa stavi parlando nella tua lunga enunciazione del duro madre come pure prolissa, lo so. A proposito di questo pezzo, hai detto che secondo te racchiude il meglio il mood del disco, e dal punto di vista della circolarità musicalmente parlando questo è perfetto. Già abbiamo sentito nell'apporto fondamentale di Max, sì. È proprio la circolarità base di questo pezzo e dà proprio l'esatta dimensione musicale del discorso, secondo me. Sì, guarda, ci sono forti riferimenti a quello che comunque è la provenienza dei nostri ascolti, perché negli anni 80, o band che comunque si rispecchiano negli anni 80, hanno questo tipo di musicalità. Quattro accordi che sono l'intro, la strofa, il ritornello, il grosso del lavoro diventa l'arrangiamento. E uno su tutti, i Depeche Mode hanno fatto storia, che per esempio Home è un accordo e sembrano 25. E come i Cure, i Joy Division, certo, utilizzavano quattro accordi, a volte due, e poche volte uno, ma c'erano pezzi con un accordo solo, e poi l'arrangiamento sia vocale che proprio le chitarre, dei synth, poi adesso andare a scegliere gli singoli strumenti non ha senso. Però il lavoro di arrangiamento è eccezionale e lo ritroviamo nel nuovo R&B. R&B americano, da Beyoncé a Christina Aguilera, ci sono quattro accordi su cui si appoggia tutta la canzone e sono sempre gli stessi. E secondo me è qui la grandiosità dei musicisti e delle persone che lavorano comunque a questi progetti, di dover fare dell'arrangiamento il valore aggiunto che molto spesso si sottovaluta nella musica italiana. Però devo dire che secondo me hai detto una gran cosa, però secondo me nell'R&B la differenza tra l'R&B e i generi che hai citato prima, i compositori che hai citato prima, i gruppi che hai citato prima, c'è una differenza molto forte, che nei gruppi che hai citato tu degli anni 80 fondamentalmente c'erano comunque delle canzoni sotto che poi erano impreziosite e rese particolari dall'arrangiamento. Nell'R&B secondo me manca un po' la canzone, c'è molta produzione. Io parlo comunque R&B di livello, certo. Perché ultimamente mi è capitato di, proprio per curiosità, di studiare due pezzi di Beyoncé a livello di arrangiamento e sono diventato pazzo. E alla fine ho scoperto che erano sempre quei quattro accordi, eppure sono delle canzoni, insomma, notevoli. Stavo parlando soprattutto di quello. Questa cosa accomuna i due generi, anche se sono agli antipodi. E nel disco di Eva anche i pezzi che portava avevano questa circolarità che a me piace moltissimo, perché anche da dove arrivo, da Sonica, i pezzi fondamentali erano, si basavano su un era molto i pezzi di Sonic erano molto ipnotici, decisamente ipnotici, anche dalle copertine molto scure. Sì, poi abbiamo amato i Killing Joke, e quindi sì, esattamente. Da un mondo che era quello, quindi ritrovare dei pezzi su cui lavorare che si avvicinano a livello mentale a quelli, per me è stato un piacere. Citiamo i musicisti che hanno partecipato, Max. Ma molto volentieri, no, citiamoli. Io sono orgogliosissima, insomma, di lavorare con loro e di lavorare con Max in primis, e grazie a Max anche per avermi poi introdotto ad alcuni di loro. E nello specie sono Giornata Bettini, che si è occupata di mixare il disco e che comunque volevo sottolineare il fatto che comunque i musicisti che hanno registrato il disco sono gli stessi che poi mi seguiranno sul palco, insomma, sui live, scusami, e quindi saranno sul palco con me, e quindi ci sarà appunto Max, come ho detto prima, che suona la chitarra e farà A e O, come dice lui. Sto giro non canta. Che bello. Beh, hai detto, hai fatto qualche coretto adesso. Sì, però. Ma giusto per, così, per abbellire, per abbellire. Ma poi io ci conto che poi si faccia prendere, che quindi canti di più. Comunque, stavo dicendo appunto Giorgia Bettini che si occuperà delle tastiere, dei sintetizzatori, quindi della parte elettronica, Stefano Facchi che invece suonerà la batteria, e William Nicastro al basso. Sottolineo, spero faccia piacere a Max, che comunque sia Max che Jonathan e che Stefano sono diciamo una bella fetta di Idea Sonica che io mi sono proprio portata a casa e ditemi scema e sono molto molto fiera di avere questa band, sono tutti bravissimi veramente, poi anche delle gran persone. Perfetto, bene, allora ci ascoltiamo un altro pezzo del disco di Eva che si intitola Dura Madre. La pagata è stata pagata in questo momento, Eva. Scusa, tu non vedevi ma noi qua facevamo un scambio commerciale. C'è una bisca della quale non sono stato informato. No, vabbè. E allora dicevo, siamo con Eva e siamo ancora con Max Zanotti. Dura Madre si intitola l'ultimo lavoro di Eva. Ascoltiamo un'altra traccia di questo CD per poi tornare qui in diretta per commentarlo insieme. Blu Radio Sera. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Il pezzo che ci siamo ascoltati si intitola La prima scelta ed è la traccia numero 7 dell'album Dura Madre di Eva, e lo stavamo ascoltando insieme a voi carissimi ascoltatori e stavamo anche giocando una specie di disputa su quello che doveva essere la seconda canzone ad essere proposta secondo le leggi radiofoniche dopo il Cadono le nuvole, e la scelta ecco, la scelta è capitata proprio sulla prima scelta. Allora, la prima scelta, che è un po' un mondo, a quanto ho capito, visto al femminile, quindi il tuo mondo, Eva. Ma in realtà è un brano che fa riferimento al mondo femminile, è vero, sì. Ha un certo tipo di mondo femminile che però io sento distante. E quindi è una sorta di critica un po' a quello che è un certo aspetto di una certa tipologia femminile che appunto ritengo distante da me, e mi piacerebbe che invece ci fosse... che venisse fuori un altro tipo di donna, comunque con dei valori diversi, e che comunque sia orgogliosa di essere, non so come dire, di mettere davanti prima di tutto l'individuo, prima che le tette, scusatemi, culo. Sì, perché tu dicevi la prima scelta, e forse sì, si faceva riferimento al primo sguardo, al primo giudizio che la gente ti dà, ti offre, dove raccoglie subito un quadro che può essere assolutamente superficiale, sì, della, sì, persona. Sì, questo piuttosto che magari, che ne so, che la prima scelta che qualcuno fa rispetto a quello che può essere la scelta di una scelta di vita, che magari è la più facile, la più immediata, insomma può avere più interpretazione appunto a questa prima scelta, no? E tante volte quella meno meditata, tante volte appunto è la strada più facile tra virgolette, però anche tante volte non è la vincente a ben vedere, no? E allora è un po' una sorta di critica ad un certo tipo di atteggiamento un po' superficiale, se vogliamo, che è comprensibile anche, però mi piacerebbe vedere un altro tipo di donna alla... insomma, un po' più sulla cresta dell'onda, tra virgolette. E musicalmente è un pezzo molto accattivante, è il ritornello che fa fede, che fa importanza, che dà spessore. Questo brano, devo dire che c'è stata molta collaborazione, forse è il brano in cui abbiamo più collaborato proprio come gruppo, nella scrittura, sia a livello di arrangiamento che a livello testuale. Il brano è firmato sia da me che da Max, anche perché appunto c'è stata una grossa collaborazione. Una cosa volevo chiederti, Eva, quando avete deciso di fare questo pezzo, sì, l'idea dell'arrangiamento, l'idea del canticchiare, l'idea dell'accattivante, com'è nata? È nata spontaneamente o era predisposto? Beh, per esempio ti faccio un esempio sul ritornello. Stavamo cercando un ritornello che funzionasse e avevamo queste due idee di quello che poi è diventato un solo ritornello. In realtà erano due ritornelli separati, in uno c'era taratarara tarara tarara, questa ripetizione, e nell'altro troverai, canterai, parlerai, insomma l'altra ripetizione. Poi abbiamo provato proprio a metterla assieme perché poteva sembrare che funzionasse, e funzionava da paura, quindi è andata così. Ale, c'è andata bene. E l'abbiamo usato perché effettivamente c'è un intersecarsi ritmico e melodico delle due voci che funziona benissimo. È stato veramente un lavoro, un brano work in progress a casa di Max e nel suo studio. L'abbiamo veramente arrangiato assieme, insomma c'è stato un bel lavoro di veramente di gruppo su questo brano. Io faccio sempre questa domanda: è stata messa come traccia numero 7, è casuale la traccia numero 7 o volutamente è stata messa là perché doveva dare un movimento diverso, che di solito non è mai casuale la traccia. Devo dire che la scaletta, io sono una che chiede sempre molti consigli, ascolto molto. Max non ha detto niente, stava pensando. Stavo pensando al testo, dicevo, ma perché c'è riferimento al 7? No, il 7, no, quella posizione è là, la posizione nella scaletta, questo pezzo qua, secondo me ha una posizione importante. Strategica. Allora, come ti dicevo, tutto sta dal fatto che comunque io chiedo sempre molto i consigli di tutti, perché credo che sia importante sentire l'opinione delle altre persone. Poi però mi piace scegliere con la mia zucca. E alla fine devo dire che... non mi convincevano troppo le idee che avevo sentito, e quindi alla fine mi sono presa la responsabilità di fare la scaletta. Ah, ok, ok. Bene. E l'ho pensato onestamente, per come faccio un po' i DJ set, l'ho pensata con un'idea, perché per me era la cosa che mi sembrava più giusta, con un'idea che di introduzione molto, un po' come racconta Max di solito quando dice quando si riferisce a Male Nero, cioè per un brano della scaletta, del disco, e lui dice: questo è il pezzo Patticchiari amicizia lunga, vero Max? Sì, perché si capisce che si fa sul serio, insomma, capite che questo disco qui è così. E poi, insomma, sì, con questa sorta di introduzione seria un pochino più cupa, poi si arriva ad un BPM più alto, in cui comunque c'è poco, dico io, e poi dopo si va verso, diciamo, una discesa a livello proprio di rilassamento, in qualche modo, di apertura anche di un tema, di un climax un pochino più evanescente, più morbido, insomma. Eva, tu prima hai citato DJ set, cosa mi dici di Vipere DJ set? Vipere DJ set, grande la Rob Sani. È un'esperienza in duo in appunto questo DJ set che ci siamo inventate io e questa mia amica, questa che si chiama appunto Laura Bussani, che sì, è una brava attrice di teatro triestina, e nonché mia amica dall'età di 16 anni, quindi da moltissimo tempo, e anche lei è cantante di un gruppo, gli Etoile Filante, e abbiamo condiviso, insomma, la console in varie situazioni a livello di DJ, appunto, e facendo alcune serate, ed è un'esperienza molto divertente, molto carina, che mi piace, che però mi piace anche fare senza spingerla troppo, nel senso che ho fatto anche molti DJ set da sola, però cerco sempre che di mantenere la cosa ad un livello non amatoriale, ma comunque che rimanga un divertimento anche per me, perché ho capito che quando iniziavo a fare 3 serate in una settimana poi mi rompevo le scatole, ho capito che forse è meglio farne un po' di meno e farle quando... Che tipo di musica proponi all'interno dei tuoi set? Io mi sono inventata questa cosa qua. Praticamente ho inventato... comunque propongo della musica alternativa, si muove... tutta la scaletta si muove seguendo quello che è il fil rouge, insomma, quindi il legante, che è quello della musica alternativa. Però mi sono inventata una cosa che è una sorta di scaletta cronologica, quindi parto dalla bubblegum music degli anni 50, bubblegum music degli anni 50, scusatemi, tanto mi mangio le parole, e muovendomi poi piano piano proprio secondo le epoche vado avanti, che ne so, passando attraverso gli U, passando attraverso i Jam, poi il periodo Mod, poi arrivo alla New Wave, e insomma a seguire durante le varie epoche arrivo ai giorni nostri, e sempre comunque su questo fiso, seguendo sempre questa linea, insomma, questa corrente di musica alternativa, e quindi si crea un'atmosfera proprio che si muove nell'epoca, nel tempo, ed è molto carina. Cerco di mettere dei brani che non siano proprio banali, ma allo stesso tempo non mi piace neanche essere troppo ricercata mettendo quei pezzi che non conosce nessuno. Troppo elitari, insomma, praticamente. Perché sì, perché dico sempre: i pezzi che non li conosce nessuno, ci sarà un motivo se non li conosco. Spesso e volentieri, perché non li balla nessuno, e quindi. Certo. Quindi l'importante è proprio lo studio, anche a priori, prima di proporre, c'è un'intensa opera di ricerca all'interno. Sì, io sono un po' pignetta nelle cose che faccio. C'è Max che annuisce. Beh, già, anche questo dura madre che stiamo presentando un po' dimostra quella che è la tua tecnica e anche di persuasione nei confronti di chi metti sotto per suonare. In realtà devo dire che io ho saputo scegliere bene, nel senso che le persone che hanno collaborato con me sono dei fior di artisti, quindi non ho dovuto neanche metterli sotto, alla fine certo. Sono loro stessi che hanno grandi capacità e doti. Allora ascolta un altro brano in versione acustica, cosa ci ascoltiamo adesso? Guarda, adesso ci... ecco il commento. Introduzione. Magico Max, ci ascoltiamo Temporale in una versione. No, ci ascoltiamo cosa, Max? Il giocatore scusatemi, sì. Mi ha fatto una faccia sconvolta. Io anticipavo. Ok, quindi il giocatore. Avanti, Eva. Talmente avanti che quando si gira si guarda. Bella. Assicurata, tu mi piaci anche di più, un fuoco artificiale. Tu mi fai tremare, tu mio amore criminale, tu sei da vietare. Mi piacciono le sfide, sono un giocatore. Mi piacciono le sfide, poi mi piaci tu. Se finisce male perdo con il cuore. Se finisce male fingo con il cuore. Se finisce male lascio senza cuore. Senza cuore. Perdere tutto come un giocatore. Non rischiare niente per salvarsi il cuore. Mi piacciono le sfide, sono un giocatore. Mi piacciono le sfide, poi mi piaci tu. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora una volta in versione acustica Eva assieme a Max Zanotti. Si intitola Dura Madre il CD che ci sta proponendo in questa serata, e la canzone che ci ha proposto si intitola Giocatore, sicuramente non uno sportivo ma uno che gioca con i sentimenti di serie A come amore, e dove dice se finisce male perdo con il cuore oppure fingo con il cuore. Allora com'è nata questa canzone, Eva? Con il cuore? Con il cuore infranto? No, con il cuore infranto no, devo dire, però è una dedica a una persona sicuramente, e quindi è molto da prendersi letteralmente, quindi in effetti diciamo che sono un giocatore, ci ho provato. Il giocatore ha ascoltato la canzone? Sì. Bene. Musicalmente Max ti ha proprio regalato un contorno punk, assolutamente punk, poi si è fermato, c'è stata una ripartenza in fase melodica e poi il punk è ritornato. Questa è l'essenza acustica di stasera, fatta molto bene del pezzo. Io l'ho sentita, noi l'abbiamo sentita così. Questa è proprio, secondo me, ha trasportato proprio questa considerazione. Ma quando faremo la ristampa, faremo il secondo CD, facciamo tutte le versioni acustiche. Benissimo. Sono perfettamente. Bello, fa piacere, super. Perché l'acusticità dà sempre una cosa, cioè riesci a trovare sempre cose diverse. Guarda, le stiamo scoprendo. Le stiamo scoprendo facendo questo tour delle radio, perché a me è sempre piaciuto suonare in radio e far ascoltare la musica piuttosto che magari raccontare cose che alla gente alla fine interessare, però troppo lunghe secondo me, e laddove c'è una bella voce perché non farla sentire anche in chiave acustica? Certo. E laddove c'è un bravo chitarrista, certo. La coppiata è vincente. Devo dire che anche a me piace moltissimo, e stiamo effettivamente, come dice Max, scoprendo che questi brani funzionano molto anche a livello acustico, e mi piace anche, è una cosa che ho capito e mi fa piacere notarla, che abbiamo una buonissima sintonia io e lui, anche senza guardarci, e questa è una cosa anche nuova per noi, perché avendo lavorato solo in studio, sai, c'è un altro tipo di comunicazione, però vedo che funzioniamo molto. E questo che hai detto a te in questo momento è proprio sintomatico in questo pezzo, si è visto immediatamente. Gli ascoltatori non ci sono, le telecamere, io che ero qua nella Fossa di Leoni, percepito. Così chiamata, ho visto immediatamente il discorso. Siamo gli unici testimoni oculari di quello che sta succedendo. Ovviamente il discorso della ristampa del CD acusi, così è una battuta. Una battuta, però. Però è una bella scoperta. A me piace sempre anche dare una chiave di lettura diversa al pezzo, però è stravolgerlo e far capire che sulla stessa melodia il pezzo poteva andare anche in un'altra direzione. Certo, certo. Ecco, comunque noi ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che questa trasmissione è stata registrata e andrà a far parte dei nostri archivi sonori, così ci sono due opportunità: una di comprarsi il disco e ascoltarlo nella versione originale, e poi quello di ascoltare così com'è venuta, buona la prima, nella versione live di questa serata. Così non si comprano il disco, vorresti dire? No, si comprano il disco e fanno anche un raffronto. E comunque il disco è veramente bello, possiamo dirlo perlomeno noi che l'abbiamo ascoltato per intero e adesso lo stiamo programmando. E allora parliamo un attimino di Eva, non nella versione cantante ma nella versione attrice, perché ci sono stati diversi video che ti hanno avuto come protagonista, sia all'interno del progetto Rizofonic sia assieme a Elite FIBA. Da dove partiamo, Eva? Guarda, per quanto riguarda i Rizofonic, ci sono io come ci sono tutti quelli che avevano l'opportunità di esserci in quel momento, sì, che facevano parte dei Rizofonic, quindi insomma in quel caso lì è normale. Perché diciamo che Rizofonic, per i nostri ascoltatori, sì, ricordiamo che non è un vero e proprio gruppo, una band. È una all-star band, come si dice, cioè quindi una band formata da numerosi componenti che fanno parte tutti di altre band o comunque hanno una carriera indipendente. Quindi una band a progetto, diciamo. In qualche modo sì, ecco, diciamo che sono circa 150 artisti che sono uniti assieme con questo scopo comune, intento comune di riunirsi sotto il nome di Rizofonic e di sostenere il progetto di Amref, che è un progetto che si propone di costruire pozzi d'acqua in Africa, nella regione del Cajado, e comunque di sostenere appunto i progetti di Amref in quella regione. E siamo capitanati da Mario Riso, che è il fondatore e l'ideatore di questo progetto, e insieme a lui, insomma, a collegamento c'è Icio De Romedis, che appunto fa parte di Amref, ed è una bellissima iniziativa, perché al giorno d'oggi siamo al secondo disco siamo a tutt'oggi riusciti a costruire 120 pozzi, mi pare. 133. Ecco, perché ecco. Max si ricorda sempre le cifre, io no. Poi continua tu, Max, perché io non mi ricordo le cifre. Dunque, ad oggi siamo a circa 133 pozzi d'acqua, due cisterne e tre scuole. E quindi tutti gli sforzi, che poi sforzi sono andare su un palco, suonare, registrare dischi, con tutto il rispetto verso chi di sforzo lo fa veramente, certo. Siamo riusciti a fare qualcosa per qualcun altro, cioè la vita ci ha regalato comunque una bella passione, un bel dono, perché comunque non è che uno nasce e canta così e quindi ridiamo, come dice Mario, qualcosa a chi ha avuto meno. E questa cosa, facendolo col nostro lavoro e non con tipo un dopo lavoro andare a fare volontaria da qualche parte, è un bel privilegio. E se questo privilegio può sfociare nel vedere persone che hanno la possibilità di bere a casa loro e non fare sette ore di cammino per andare a prendere l'acqua, è una bella cosa. Altre cose, su YouTube sono disponibili anche dei video, appunto, che parlano di questo. In particolare mi riferisco all'uomo di plastica e poi ancora nell'acqua. Nell'uomo di plastica c'è proprio questo invito a tenere ferma l'acqua, cioè a usarla solo se necessario. Quindi ci sei tu, a casa, Cristina dei Lacuna, insomma, ci sono veramente tantissime persone, tantissimi artisti. E il secondo disco del progetto Rizofonic, il secondo video del progetto Rizofonic, il secondo singolo uscito, ed è appunto un video in cui ci sono dei messaggi in cui si racconta di come l'acqua viene sprecata e di come, se non si può in qualche modo aiutare o non si può comprare il disco, non si può, che ne so, comunque aiutare Amref economicamente, si può perlomeno pensare di risparmiare, di non sprecare, ecco, quello che si può fare è di non sprecare l'acqua, e quindi quando ci si lava i denti, di chiudere il rubinetto dell'acqua, quando ci si insapona, si può chiudere sempre il rubinetto dell'acqua, insomma, fare un uso dell'acqua mirato un po' pochino più consapevole, perché noi siamo fortunati, in Italia ne abbiamo molta, però non è detto che questo possa continuare in futuro. E questo, aggiungo, Eva, è anche motivo di litigio in famiglia molte volte, perché sì, si nasce e si viene da famiglie con regolarità diverse, per cui magari il tenere aperto il rubinetto per... Sì, vai te in Sicilia, in Sardegna, sì, e tieni aperto il rubinetto, voglio vedere cosa ti arriva dietro. Abbiamo avuto delle esperienze dirette, purtroppo, quindi dalle 10 alle 6 del mattino basta acqua, perlomeno in Sardegna, in un periodo. Pensa in Africa, sì, quando invece una madre per fare le quattro cose, voglio dire, che si limitano a fare con l'acqua, perché purtroppo più tanto non possono, deve farsi veramente 6 ore di camminata, o gli stessi bambini che non possono andare a scuola perché devono andare a procurarsi l'acqua. Maria racconta sempre un aneddoto per cui dice che in una tribù in cui appunto erano i bambini a occuparsi del reperimento dell'acqua, i bambini poi si sono, insomma, sono stati contentissimi quando è stato costruito questo pozzo vicino al loro villaggio, esatto, però alla fine si sono anche un po' lamentati, perché hanno detto: noi siamo contentissimi del fatto che invece avete costruito questo pozzo, perché finalmente anche noi non dobbiamo più perdere tutto questo tempo per andare a prendere l'acqua, però purtroppo adesso non abbiamo più scuse per non andare a scuola, e quindi capisci anche come il fatto che comunque tu magari dia un aiuto, che ne so, semplicemente per l'acqua, alla fine questo si ripercuota anche sull'istruzione, certo, e quindi è tutto un aiuto che si espande molto, in maniera molto più ampia, anche perché sono rimasti stanziali adesso con il pozzo là vicino, quindi non hanno più, sì, esperienze di lunghe passeggiate, a conoscenza anche di altri posti. Vabbè, la cosa bella, poi, la cosa bella, sì, è che poi ognuno dei musicisti anche oltretutto ha un pozzo a suo nome, perché ogni pozzo che viene fatto, ad ogni pozzo che viene costruito viene dato un nome di un musicista, ti arriva la fotografia, e quindi insomma sono anche tutti documentati questi pozzi, qualcosa di concreto, non è la solita cosa per cui noi diciamo che i soldi verranno devoluti, no, in realtà c'è proprio la documentazione di questa cosa, che ne so, quando vedi che c'è la foto di Paolo De Negrita col suo pozzo, piuttosto che non so, farmi qualche altro nome che adesso non mi viene Roy Paci. Ecco, perché alcuni di noi ci sono stati, insomma, lì capisci che la roba è reale, cioè non è, c'era anche DJ fittizia. Ringo, anche smart. Ringo, sì, c'è molta gente insomma che è andata giù, a me manca, devo andarci. Perfetto, allora aspettiamo la foto di Eva col suo pozzo allora prossimamente, sì. E, allora abbiamo parlato appunto di video legati ad Amref, però hai fatto la tua bella figura anche all'interno del video del Litfiba, cioè. Del video del Litfiba, la mia valigia. Diego, sì, ma questo è capitato, così come è capitato che io mi sia prestata per il disco di Diego Mancino, a parte titolo, è capitato per semplice amicizia, sono amica di entrambi gli artisti, insomma, e quindi di conseguenza mi è stato chiesto se loro cercavano qualcuno che facesse quella parte, conoscevano me, mi hanno chiesto se gli sembrava potessi essere insomma funzionale per la parte, e io mi sono divertita a farla e basta, è stata una cosa semplicemente proprio uno scambio così amichevole. Comunque è un bel video, lo ricordiamo, è La mia valigia, un sì, pezzo dell'ultimo periodo dei Litfiba, sì, ormai di Diego Staino, regista. Molto bello da vedere, soprattutto per la sorpresa finale, sì. non la diciamo, comunque molto molto bello. Continuiamo con l'ascolto del disco di Eva, che è venuta a Blu Radio Veneto a proporci. Dura Madre si intitola, e adesso abbiamo, sì, ascoltiamo Lius e poi capiamo anche il cosa significato, okay, di questa sigla. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Scatole nascoste dietro porte chiuse. non so più qual è. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale Blu Radio Sera. Ancora buona serata. Io sono Flavio, dall'altra parte con me Maurizio e insieme stiamo piacevolmente conversando con Eva per questo suo nuovo disco, si intitola Dura Madre. Assieme a lei c'è anche Max Zanotti. Allora, Lius, una sigla che probabilmente scrivendola tutta per intero non ci stava nel CD, bisognava costruirlo doppio in questo caso. E allora, Lontano in una stanza stretta. Esattamente. Allora è una canzone molto molto intensa, un po' rockmantica, no? Se vogliamo dire. Bello. Sì, bene, no, l'ho scritto oggi pomeriggio. Bella sta cosa, questa te la rubiamo. Va bene. Rockmantica. Vi regalo il foglio. Allora è una canzone che parla un po' del volersi un po' ritirare in se stessi e chiudere quella porta di accesso verso gli altri per un momento di intimità assoluta. Questo e anche altro, sì, sì. Sentiamo anche l'altro. L'altro è, sì, chiudersi, anzi in realtà è proprio l'essersi chiusi in una stanza appunto stretta, in una situazione comunque che comunque era di protezione, isolarsi in qualche modo dalla realtà, dal mondo, per poi capire che non era quello che faceva per noi e quindi capire che si è vissuto in qualche modo in una situazione ipocrita, di comodo, comunque per riuscire a superare una situazione, per comunque riuscire a isolarsi, per riuscire per tenere stretto quello che si poteva avere soltanto in quella condizione. E una volta che quella condizione non sta diventata troppo stretta, sta troppo stretta, ci si scioglie i capelli, certo, e si apre quella porta e ci se ne va e si dice ciao, tanti saluti. Ecco, solitamente nel testo viene ripreso anche il titolo della canzone, quindi questa sigla Lius, Lontano in una stanza stretta, non si è mai sentito all'interno della canzone. Perché questo brano che è anche quello che a me piace di più come scrittura proprio a livello letterale, non grammaticale, letterale, sì, è stato scritto veramente di getto, ho cambiato veramente poche cose all'interno del testo ed è stato scritto in una notte, mentre lo cantavo. Buona parte dei brani, devo dire, sono nati un po' così, però questo proprio dall'inizio alla fine è stato proprio una roba di getto, avevo proprio bisogno di scriverlo. E quindi sì, il titolo in realtà era una cosa che avevo scritto io in velocità per dare un titolo, per chiudere il progetto sul programma che utilizzavo, bisogna dare un titolo, insomma, comunque esso sia un numero, un titolo, una cosa. E io avevo scritto Lontano in una stanza stretta perché era la prima cosa senza pensarci che mi era venuta in mente. E quel discorso che facevo prima sul funzionamento del mio cervello, tu fai, lui mi dice, poi dopo capirai. Musicalmente ha la particolarità che la voce è in primo piano, molto in primo piano, sì. Cioè, ci sono gli archi, questo discorso minimale, ma è la voce la protagonista, più degli altri pezzi secondo me. È vero, sì, c'è una produzione molto, molto minimale, c'è un lavoro a livello di ritmica e di elettronica che è stato curato da Jonathan, che ha fatto, che ha creato questa ritmica iniziale molto intimista. Mi piace molto questo particolare. È una vocetta alla Kate Bush, secondo me. Io ammiro molto Kate molto Bush. Molto all'inizio certe cose che faceva Kate. Figa. Esattamente, veramente quello. Figa. Beh, uno dei miei riferimenti musicali. È rimasto Wuthering Heights nelle mie orecchie ancora di quel tempo, quando non era ancora famosissima, però Babushka poi a seguire. E non a caso male. Peter Gabriel l'aveva anche scelta tra le tante per un duetto famoso. Sì, sì, sì, per un altro duetto. Don't Give Up, mi pare, da Somi, il disco. Oddio, non so. Strano che io me li ricordo, perché non mi ricordo mai i titoli di niente. Un pezzo meraviglioso in ogni caso. Però veramente grande cantante, grande autrice anche. Dobbiamo ringraziare e salutare anche il nostro direttore artistico Alberto, che stasera, grazie ad Alberto, anche la sua sagacia, sì, siete venuti qua stasera, Alberto Prisco. Ringraziamo quindi. Alberto. Esattamente. Bene, ringraziamo Alberto Prisco, lui conduce la trasmissione del giovedì sera dalle 22:30 alle 24 con la programmazione della classifica rock all'interno di Blu Radio Veneto. È un grande esperto di musica rock anche Alberto Prisco. Allora, abbiamo spazio ancora per sentire un altro pezzo da disco e forse un altro ancora, visto che sono 10 le tracce, perché non ascoltarcele tutte? E allora adesso sì dai, alla grande, alla grande. Alla grande. Bella, mi piace questa radio. Fantastico. Allora, adesso ci ascoltiamo il nemico. Vediamo chi è il nemico per Eva. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E a quanto pare a Eva piace molto anche la nostra sigla. Mi fa sorridere un casino. È la base. Sì. È molto sì. Mondaini Vianello. Però stavo pensando, ti giuro, la stessa cosa. Certo, è molto da sabato sera. È molto da sabato sera. Cioè, mi vengono in mente veramente Mondaini e Vianello che fanno le loro gag. Simpatici. Vabbè, simpaticissimi sono stati. Io li ricordo i momenti Tarzan e Jane. Bellissime, meraviglia. Vabbè, allora abbiamo ascoltato un altro pezzo. Abbiamo un po' ribaltato la scaletta. Si trattava della traccia numero 9, il nemico con un piano molto presente all'interno di questa opera di Zanotti, opera di Max Zanotti. E dove tu, Eva, dici: tu mi fai male come il veleno, ti voglio evitare. Allora, questo nemico chi è? Questo nemico è... Una volta parlando con un gruppo di giornalisti, avevamo una round table e mi hanno chiesto appunto qualcosa riguardo questa canzone. Gli ho detto: avete presente quel moroso o quella morosa di cui siete totalmente presi e che però vi tratta come una... Perché anche... E tutti mi hanno detto, c'è stato un coro di sì, sì, sì. Ecco, diciamo che è un po' quel tipo di rapporto lì, sì. Un rapporto, anche questo è un rapporto purtroppo malato, in cui comunque tu sai che c'è, sai che comunque ti trovi in una situazione con una persona che comunque non fa per te, dalla quale comunque quasi come una droga in qualche modo sei attratta o attratto, insomma, e però questa relazione, questa persona è completamente sbagliata, perché comunque ogni qualvolta ti trovi diciamo nelle vicinanze di questa persona entri in uno stato di quasi di assuefazione, non so come dire, o comunque di sudditanza nei confronti di queste persone, quindi fai le scelte e hai i comportamenti più sbagliati possibili, quindi... come la terra nei confronti del sole, quindi gli gira sempre intorno, gira e si sente attratta, esatto, in continuazione, come un drogato in qualche modo nei confronti della propria droga, sa che gli fa male però non riesce a farne a meno, quindi in qualche modo sei come veleno, ti devo evitare, prima se ti evito non mi fai male, solo sei facendo come un vestito, sì, che voglio bruciare, certo e solo facendo un salto fuori dal cerchio si riesce a capire poi la motivazione principale di questo errore che, sì, da dentro non si riconosce. Ma in qualche modo credo che poi questa è un tipo di come dire, di come non so, come la droga, come l'alcol, un tipo di, come si dice, dipendenza. Bravo, ecco, esatto, credo che tutti noi siamo dipendenti poi da qualcosa, cioè, in questo caso si parla di una dipendenza affettiva che spesso è psicologica, quindi una carenza magari affettiva, però credo che tutte le dipendenze in qualche modo lavorino su una carenza affettiva o una carenza in qualche modo che noi abbiamo, no? Ed è bello, interessante questo tipo di rapporto, insomma, che nasce tra ciò che noi vorremmo avere, ciò che sappiamo ci fa male, che quello che il nostro bene è anche il nostro male. Certo. Flavio ha citato il piano, questo piano che dà una colorazione specialmente alla fine molto nera, molto, sì, dark. Max, vieni vicino al microfono. Sì. Come mai l'idea di questa colorazione nera? Perché mi piace abbinare sempre il pianoforte a chitarre, creano un suono che mi piace molto. E poi mi piace utilizzare delle frasi cicliche che sottolineano magari il mood di quel momento. E il piano è un buono strumento. Un po' la Joy Division. Sì. Decisamente. Un qualcosina. È lo strumento principe, secondo me. Tornassi indietro, studierei. Ok, perfetto. Devo dire che Max ha una grande capacità di sottolineare anche proprio un momento emotivo con degli interventi melodici veramente mirati. Quel pianoforte in quel punto è proprio una dichiarazione drammatica. Sì, sì, proprio ti dà un colpo allo stomaco. Sì, è veramente... c'è veramente molta sintonia con quello che io volevo dire e quello che lui è riuscito in qualche modo in quel momento ad aggiungere in più alla canzone. Bene, mentre tu Eva ti eri allontanata un attimo dalla saletta, noi abbiamo parlato su come si potrebbe continuare nei prossimi 10 minuti di trasmissione. È giusto che tu io lo sappia. Io barzellette non ne so, vi no, avviso subito. No, però conosci le canzoni. Sì. Allora, conosci le canzoni e ti vorrei proporre di fare temporale live, okay, e poi di chiudere alla stessa maniera, sempre in versione acustica con Regina Veleno. Ce la facciamo? Sì, sì, penso che possiamo permettercela. Alla peggio sbagliamo. Certo. Vabbè. Allora, cominciamo da temporale. Allora. Ok. Posso accordare il sì? Come no? Live? Sì. Assolutamente live. Vabbè, totally live. Tutto live. E batte un po', in effetti. Sentite anche l'accordatura, come avviene l'accordatura di una chitarra live. È bellissimo della diretta. Vabbè, dai, grosso modo ci siamo. La sento addosso, non la riconosco, è come fuoco che mi brucia. Mi sento forte come adrenalina, fuoco a caccia di benzina. Vento che gira, sono un temporale, viaggio veloce più del suono. Faccio paura come un uragano, come guidare contro mano. C-I-S-O-N-O, ci sei o no? C-I-S-O-N-O, ci sei o no? C-I-S-O-N-O, ci sei o no? C-I-S-O-N-O, ci sei o no? Sono molesta fino a fare male, una palude di zanzare, elettrica potenza nucleare, dannatamente micidiale. Sono un problema in avvicinamento, come sputare contro vento, un cacciavite che ti farà male, un accendino per bruciare. C-I-S-O-N-O, ci sei o no? C-I-S-O-N-O, ci sei o no? C-I-S-O-N-O, ci sei o no? C-I-S-O-N-O, ci sei o no? C-I-S-O-N-O, ci sei o no? C-I-S-O-N-O, ci sei o no? C-I-S-O-N-O, ci sei o no? C-I-S-O-N-O, ci sei o no? Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato anche questo, il temporale, si intitola la canzone, Dura Madre è il titolo del CD. Eva è ancora con noi, sono passate da poco le 22:30, dovrebbe esserci il nostro collega, però ci ha lasciato lo spazio per il collega Renato Ferro, che salutiamo. Solitamente in questa programmazione c'è hard rock e heavy metal, e invece siamo ancora all'interno del nostro spazio acustico, ancora con Eva. ancora con Max Zanotti. Allora, si diceva Temporale, adesso l'abbiamo ascoltato in una versione acustica. Bellissima, tra parentesi. Sì, però, coretto, due coretti, due voci che si sono incastrate, un mantra, abbiamo parlato di un mantra sonoro. Sì. Bello, bello, mi piace anche questo, ti rubo anche questa. Bene, bene. Bene. Allora, sicuramente questa canzone ascoltata da disco presenta delle sonorità molto vicine ai Prozac più, no? Perché sì, è un'atmosfera molto molto pancheggiante questa. Sì, sì, da disco è tipo, cos'è, 182? 180. No, 180, è con BPM completamente diverso da quello a cui abbiamo fatto. E quindi adesso, con quel tormentone del C-I-S-O-N-O, sì, ci sei o no, che rende ancora... E hardcore proprio. Sì, sì, sì, assolutamente. Diciamo che questa era una versione CSI. Sì, vedi che ci torna. Giusto, giusto, hai ragione, hai ragione. Bene, e quindi appunto rinnovo anche i nostri ascoltatori, oltre a prendere il disco di Eva in versione, sia in versione box, diciamo, sia in jewel versione case, come si dice. Ok, eccolo là, sia in versione iTunes, diciamo, quindi scaricandolo direttamente in maniera legale da internet, e quindi prendetevi anche come riferimento questo indirizzo evamusic.it. Bravissimo. Ok, allora noi siamo arrivati quasi al final di trasmissione, come dovrebbe dire un poeta, e però ci manca ancora una canzone da quello che è il vostro lavoro. Allora, vogliamo parlare un attimino. Regina Veleno è nata qualche tempo fa, no? Qualche tempo sì, fa sì. Abbiamo parlato prima di Rezophonic. Sì. E lì in mezzo ci stava anche questa Regina Veleno che tu sì, avevi scritto, Eva. Sì, questo è il brano, probabilmente il brano più vecchio, insomma, in ordine di tempo. E quando ero ancora un provino, insieme agli altri, lo feci ascoltare vari miei amici, tra cui anche Mario Riso. E quando lo sentì, mi chiese, che bello parlare, ha passato le moto, mi chiese se potevo utilizzarlo per il prossimo, quello che sarebbe stato il secondo disco di Rezophonic, e io sono stata molto contenta, insomma, di questa sua richiesta, e così è stato, e quindi è presente sia nel mio disco che nel disco di Rezophonic, però in due versioni diverse. Ecco, nel disco di Rezophonic è presente in una versione, diciamo, che molto deve Prozac più, e risente effettivamente anche visto il periodo in cui l'ho scritto, visto il fatto che è stato proprio il primo brano che credo di aver completato, insomma, risente molto di quell'influenza. E nel mio disco invece abbiamo preferito questo, un tipo di arrangiamento diverso, quindi con un quartetto d'archi, la chitarra acustica e addirittura il brano alzato di 2,5 toni, quindi è proprio ed è anche quasi la metà del BPM, insomma, certo, una velocità quasi della metà più lenta, e quindi abbiamo proprio due brani completamente diversi, insomma. Regina Veleno è anche un video che si può vedere sì, su YouTube, e tra altre cose sì, sì, sì, ci sono tutti questi ritratti sdoppiati, no? Sì, un video made ascolta... in Friul, sì, sì, se non sbaglio, con riprese ci sei... anche a Milano, però con riprese folpe di Cordenons, la sì, mia sì, patria, sì, sì, sì, assolutamente, anche perché sei stata tu una delle ideatrici di questo video. Sì, beh, insomma, in realtà più che altro diciamo che ho collaborato con il regista e il ragazzo, insomma, e coloro che l'hanno girato e montato, che sono tutti ragazzi di Pordenone dintorni, insomma, quindi della mia zona, che si sono prestati, sono stati molto bravi e hanno fatto un grande lavoro di montaggio, insomma, di anche di regia, insomma. Sì, tra le altre cose lavoro, siete credo riusciti anche a prendere uno dei consiglieri Amref e farlo sì, vedere sì, in sì, video. Sì, sì, sì, che è Icio de Romedis, che avevo citato all'inizio della trasmissione. Sì. Sì, difatti è stato girato in parte appunto in Friuli e in parte poi a Milano, perché giustamente alcune parti le abbiamo girate con me e poi siamo andati a Milano a raggiungere gli altri componenti, diciamo gli altri musicisti che avevano suonato in questo disco, scusami, in questo brano nello specifico, e quindi insomma si compone di tutte queste figure. C'è un bel lavoro di post-produzione, molto divertente come video, molto interessante. Bene, allora adesso Che dire, Eva, noi ti ringraziamo per essere stata con noi. Grazie a voi. Per averci fatto trascorrere queste quasi due ore in maniera davvero piacevole. Anche per noi. Per l'ascolto di Dura Madre, ricordiamo il tuo ultimo lavoro per la produzione di Max Zanotti, che è venuto qui con noi con la sua chitarra. Ringraziamo anche lui per il viaggio che ha fatto molto lungo. Grazie per venirci a raggiungere. Allora, noi come al solito, io e Maurizio, vi lasciamo i microfoni aperti per l'ultima canzone e quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande caloroso ciao, vi lasciamo ancora i microfoni aperti con Eva, con Max Zanotti e questa Regina Veleno. Grazie ancora per essere stata con noi, grazie anche a Max. Grazie a voi. Grazie. Era uno scherzo. C'è sempre un po' di indecisione sull'inizio della tonalità di questo brano. Regina veleno agli occhi di un lupo, dipinti di nero come un dispiacere. Regina veleno a labbra di fuoco che bruciano l'anima solo per gioco. Regina veleno è come un animale che è stato ferito, può solo far male. Regina veleno si sente mancare, si volta di fianco e inizia a vomitare. Regina veleno non crede a nessuno e nessuno le crede, nessuno le crede. Regina veleno non crede a nessuno e nessuno le crede, nessuno le crede. Regina veleno non crede a nessuno e nessuno le crede, nessuno le crede. Regina veleno non crede a nessuno. Regina veleno, non vuoi stare male, nascondi il tuo viso dietro un sorriso. Sai fingere bene come un grande attore, nessuna emozione, neppure il dolore. Regina veleno, un cuore vietato, ghiacciato, malato, paralizzato. Miele quando viene più dolce del male. Regina veleno, non puoi rinunciare. Regina veleno, non crede nessuno e nessuno le crede. Nessuno le crede, Regina veleno non crede a nessuno e nessuno le crede, nessuno le crede. Regina veleno non crede a nessuno e nessuno le crede, nessuno le crede. Regina veleno non crede a nessuno. Lei non sa. Lei non lo sa. Lei non lo saprà mai. Regina veleno non crede a nessuno e nessuno le crede, nessuno le crede. Regina veleno non crede a nessuno. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.